dal cane che ci conforta. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Cecilia Di Lieto per la regia, eccezionalmente sui nostri schermi. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Grazie, buona giornata a tutti. Thank you.